Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani e bentrovati ad un nuovo appuntamento con il vostro Salva Danaio. Come vi ho già annunciato ieri, oggi ritorniamo sullo scudo fiscale. Siamo ormai alle ultime battute per le operazioni di regolarizzazione o rientro dei capitali detenuti illegalmente all'estero, operazioni che vanno concluse entro il 15 di questo mese, oggi è il 1° dicembre, e a meno che non arrivi una proroga, perché a questo punto, anche alla luce di recentissime novità, in molti stanno invocando. Come abbiamo già avuto modo di ricordare nell'ultima puntata dedicata a questo tema, il rientro dei capitali ha messo in moto l'industria bancaria e finanziaria italiana, che si aspetta di spartirsi una torta da almeno un centinaio di miliardi di euro. Oggi il Sole 24 Ore pubblica un nuovo rapporto su questo tema, perché gli interrogativi sono ancora molti e riguardano in particolare le attività finanziarie all'estero più complesse. Proprio su questo ieri sera è intervenuta una nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate, che ha scompaginato un po' le carte, le convinzioni degli intermediari finanziari. Come abbiamo avuto modo di spiegare nelle altre puntate, ci possono essere situazioni meno complesse che magari vengono sottovalutate dai contribuenti. Noi, tra l'altro, nelle altre puntate, proprio su queste, abbiamo focalizzato la nostra attenzione, come per esempio la titolarità di un rapporto di conto corrente con una banca all'estero, perché per un certo periodo della nostra vita si è lavorato fuori dall'Italia, oppure la regolarizzazione della casa delle vacanze in Croazia piuttosto che in Spagna. Insomma, allora stamattina riapriamo i microfoni a voi per rispondere alle vostre domande su questo argomento, partendo ovviamente dalla novità di ieri sera, come ribadisco, arrivata dall'Agenzia delle Entrate. 800 24 00 24 è il numero verde a vostra disposizione, 349 238 6666 è il numero invece che avete a disposizione se volete inviarci dei messaggi. La borsa oggi è partita a razzo, questa mattina in Europa le cose vanno piuttosto bene, i rialzi sono arrivati anche a superare i 2 punti su tutti quanti i listini, adesso abbiamo un più 1,8% a Parigi e a Francoforte, Londra più 1,56%, Milano più 1,74% sulle FTSE MIB, sta correndo anche l'euro sul dollaro, di nuovo 1,50,70 il rapporto di cambio in questo momento. In sostanza il mercato sembra nettamente più sereno rispetto a giovedì e venerdì scorsi su quello che sta accadendo a Dubai. Dubai World, questa grande holding immobiliare, ma non solo, ha chiesto la moratoria dei debiti, come sapete, ha rinegoziato con le banche creditrici la possibilità appunto di ristrutturare il proprio debito per 26 miliardi di dollari, quindi una cosa molto molto complessa. Non ci sarà la garanzia dell'emirato su questa ristrutturazione, ma questa precisazione fatta ieri dall'emirato appunto di Dubai non ha scosso più di tanto il mercato, che preferisce guardare appunto alla ristrutturazione del debito di Dubai World. Situazione positiva, dicevamo, i migliori titoli CIR più 3,76, in pregiro più 3,66, Mediaset che ha ricevuto un giudizio positivo di Credit Suisse guadagna il 3,56, Fiat oggi sotto i riflettori, Marchionne incontra il ministro Scajola, il gruppo Lingotta ha ricevuto anche un giudizio positivo di Citigroup e quindi rialzo piuttosto sostenuto, UbiBanca più 2,90, Exor più 2,75, scende invece Bulgari meno 1,87%. Nicola Bulgari, il vicepresidente del gruppo, ha ceduto l'1,3% del capitale dell'azienda ad investitori istituzionali. Stamattina il titolo è partito con un ribasso del 3%, adesso ha recuperato, ma c'è ancora il segno meno. Unico titolo negativo appunto a Piazza Affari. L'ultima cosa da ricordare, l'oro che ha raggiunto stamattina l'ennesimo massimo storico sul mercato di Londra a $1,199 l'oncia. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi, ritorniamo sulla novità dello scudo fiscale. C'è tempo fino al 31 dicembre 2010 per terminare le operazioni di emersione legate allo scudo fiscale, anche se rimane fermo al 15 dicembre il termine per il pagamento dell'imposta. A 2 settimane dallo scadere dei termini della sanatoria, l'Agenzia delle Entrate è scesa in campo per fornire ulteriori chiarimenti. In particolare, i contribuenti che non potranno perfezionare le operazioni di rimpatrio o regolarizzazione entro il 15 dicembre, per cause oggettive esterne, hanno tempo fino al 31 dicembre 2010 per terminare l'iter. È stato allo stesso tempo confermato che l'imposta straordinaria del 5% deve essere comunque pagata entro il 15 dicembre e che lo scudo produce effetti fin dalla data di pagamento dell'imposta. Gli intermediari avranno invece tempo fino al 18 per versare l'imposta straordinaria sulle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione. Il rimpatrio di capitali, oltre al denaro liquido, riguarda azioni, obbligazioni, quote di fondi di investimento e di diritti reali e certificati. Porte aperte anche sulle proprietà immobiliari e di lusso come gli yacht. L'evasione sarà perdonata purché d'ora in avanti i beni vengano fatti rientrare in dichiarazione. 800 24 00 24 è il numero verde per parlare non tanto con me quanto con gli ospiti di Salvadanaio che anche stamattina non ho presentato. Ogni tanto mi capita di avere questa dimenticanza. Allora, dimenticanza, corro subito ai ripari. È tornata con noi Lucilla Incorvati, collega del Sole 24 Ore, che ha coordinato con Marco Loconte questo speciale che oggi è pubblicato appunto con il quotidiano. Lucilla, bentornata. Buongiorno a tutti. Bentornato anche all'avvocato Fabrizio Vedana, responsabile dei servizi legali di Unione Fiduciaria, la fiduciaria delle banche popolari. Bentornato anche a lei. Buongiorno a tutti. E do invece il benvenuto al dottor Andrea Bolletta dello studio russo De Rosa Bolletta e Associati, uno studio di professionisti, quindi alle prese anche loro questa mattina con le interpretazioni dei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate di ieri sera. Dottor Bolletta, buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie. Vogliamo partire subito allora con questi chiarimenti che sono arrivati ieri sera e che riguardano proprio il perfezionamento delle operazioni di emersione. La circolare fresca che era molto attesa. Lucilla, avete aspettato pure in redazione? Sì, abbiamo aspettato, è arrivata finalmente alle 9 di sera. Esatto, con grande felicità degli intermediari a cui sono tremati i polsi quando hanno visto i nuovi termini. Perché fissati. C'è questo, diciamo, rispetto alla scadenza originaria che era al 19 di gennaio, è stata anticipata appunto al 18 di dicembre, il che significa appunto che nelle prime due settimane di dicembre, cioè da oggi al 14, vero Fabrizio, probabilmente ci sarà un corri-corri e probabilmente molti, anzi, saranno in grosse difficoltà perché non riusciranno probabilmente o dovranno fare appunto grossi sforzi. Cioè praticamente gli intermediari dovranno versare entro il 18 dicembre l'aliquota del 5% sul capitale detenuto all'estero che è stato presuntivamente, utilizzo anche un termine che mi sono inventato adesso, calcolato, avvocato Vedana. E qui sta tutta un po' la complicazione della faccenda, perché inizialmente si aveva tempo fino a metà gennaio, dicevamo, ma adesso come la mettiamo? Ammettiamo che bisogna fare le corse, decidere se dire sì a tutti i clienti che hanno in animo di fare lo scudo fiscale da qui, da oggi, primo dicembre, fino al 15 dicembre, oppure cominciare, come già si è fatto per la verità già in passato, in situazioni come immobili piuttosto che quote di partecipazioni molto delicate e soprattutto non chiare prima della circolare 49, a dire no ai clienti. Perché? Perché uno, non hanno le disponibilità da mettere a disposizione dell'intermediario per effettuare il versamento dell'imposta, due, perché non sono in grado, perché trattasi magari di attività particolari, hedge fund e via dicendo, di effettuare automaticamente il calcolo dell'imposta dovuta. E quindi l'intermediario, così come il contribuente, è in questo momento alle prese con una decisione. Dico, faccio lo scudo per il contribuente, oppure, caso intermediario, lo accetto questo scudo col rischio di andare oltre i termini nel pagamento dell'imposta. Quindi forse un boomerang a quest'ultimo chiarimento dell'Agenzia delle Entrate. Anche il rischio che, per esempio, molti contribuenti possano non essere accettati dagli intermediari, ammettendo che stiano decidendo in queste ore di fare la regolarizzazione, di scudare i propri capitali, si può anche correre il rischio che non siano messi nella condizione di poterlo fare. Assolutamente, c'è un rischio effettivo e reale che il contribuente si senta dire dall'intermediario: mi spiace, ma alla luce dell'ultimo chiarimento non riesco a darti una risposta certa sulla possibilità di fare lo scudo, perché rischio, se non mi metti a disposizione tutti gli elementi necessari, e potrebbe capitare di non dare seguito al pagamento dell'imposta. Accanto, sì, Lucilla. No, dicevo, anche perché, come commentavamo con Fabrizio, molte banche italiane, che sono poi quelle interessate al rimpatrio del denaro fisico, ecco, si sono mosse in ritardo, e c'è da dire che le situazioni più complesse sono proprio quelle di capitali che sono al momento investiti o in strumenti complessi come hedge fund, ma anche tanti titoli illiquidi, il cui smobilizzo a seguito di quello che è accaduto sui mercati finanziari è al momento bloccato. Quindi la valorizzazione non si può neanche quantificare, esatto. Quindi su che cosa si calcola il 5%? 100% esatto. Anche nel giro di 3 giorni, giustamente, esatto. È un problema. Poi magari questo. L'altro sì. Dottor Bolletta. Il dottor Bolletta, peraltro, volevo, se no penserà che lo abbiamo invitato per scherzo a Salvadanaio, che ce la chiacchieriamo tra di noi. C'è anche Lucilla Incorvati specificava l'aspetto delle attività complesse detenute all'estero, e anche questo è stato oggetto della precisazione di ieri sera dell'Agenzia delle Entrate, la circolare, la numero 50 di quest'anno, ricordiamolo. Ci sarà tempo fino al 31 dicembre, lo dicevamo anche noi nella nostra scheda, del prossimo anno per completare le regolarizzazioni complesse. Sicuramente questa è una contraddizione, perché comunque l'imposta va versata entro pochissimi giorni e poi si può in 13 mesi stabilire quanto è complessa come dire, la struttura finanziaria del capitale detenuto all'estero. Dottor Bolletta, voi come avete colto tutto questo? È così come state dicendo, assolutamente viene dato un termine che è il 15 dicembre entro il quale tassativamente va versata l'imposta sostitutiva del 5% e va presentata all'intermediario la dichiarazione riservata. Dopodiché viene specificato che c'è un termine che va al 31 dicembre del 2010 per completare il rimpatrio delle attività finanziarie o la regolarizzazione di quelle attività che fossero detenute e conservate all'estero, ma questo termine del 31 dicembre del 2010 è un termine del quale ci si può avvalere solo laddove si sia comunque dato corso all'operazione, quindi si sia iniziato il rimpatrio prima del 15 dicembre del 2009 e l'effettivo arrivo delle attività presso l'intermediario qui in Italia sia stato ostacolato da cause che non dipendono dalla volontà dell'interessato. Le cause ostative. Cause ostative al completamento nella scadenza, se vogliamo, ordinaria, che sarebbe quella del 15 dicembre del 2009. Dottor Bolletta, chi stabilisce la complessità delle emersioni che come tali hanno diritto di godere di questo periodo fino a dicembre del prossimo anno per poter emergere? Evidentemente lo individua sotto la propria responsabilità l'interessato, che si avvale di questa procedura indicando nella dichiarazione che va a presentare all'intermediario entro il 15 dicembre del 2009 la presenza di una causa ostativa. Quindi il fatto che le attività non riusciranno a essere rimpatriate entro il 15 dicembre del 2009 per cause non dipendenti dalla sua volontà deve essere valutata e attestata dall'interessato, e potrebbe un domani esserci anche una contestazione da parte dell'amministrazione finanziaria laddove ad esempio non riconoscesse l'indipendenza dalla volontà dell'interessato di queste cause che hanno ritardato. Se non sbaglio c'è anche una casistica che è stata elencata in una circolare piuttosto vecchia dell'Agenzia delle Entrate, magari su questo andiamo nella seconda parte di Salvadanaio. Vi chiedo un minuto di pazienza perché adesso devo andare in pausa, c'è la pubblicità, il meteo e poi ci sono anche degli ascoltatori già pronti ad intervenire, segno che ancora qualcuno, nonostante i tempi stiano veramente stringendo, è così attanagliato nel dilemma se scudare o meno, anche magari piccoli capitali detenuti all'estero, però insomma sono in ogni caso questioni che è meglio sistemare, forse è meglio sistemare queste piuttosto che tutte le attività complesse, perché abbiamo visto quanto problema c'è intorno a questo. Siamo ritornati a Salvadanaio, siamo ritornati su un tema che abbiamo affrontato almeno 3 o 4 volte nel nostro programma, il tema dello scudo fiscale, che insomma vediamo stamattina anche noto dai messaggi, dalle telefonate che stanno arrivando, sta comunque ancora interessando parecchi degli ascoltatori, e chiaramente è chiaro, le banche, gli intermediari finanziari si aspettano il rientro di patrimoni molto importanti, però come abbiamo già avuto modo di specificare nelle altre puntate ci sono anche, come dire, capitali di taglio un po' più modesto che devono essere regolarizzati, ci sono tanti appartamenti che magari qualcuno si è comprato negli anni passati che non ha ben definito nel suo rapporto con il fisco italiano, conti correnti sparsi un po' all'estero perché in un periodo della nostra vita abbiamo lavorato fuori dall'Italia, e allora questa è un'occasione che si può utilizzare naturalmente per sistemare queste posizioni. Ci sono poi però anche regolarizzazioni complesse da fare, e proprio per questo ieri sera è intervenuta una nuova precisazione dell'Agenzia delle Entrate che dà tempo agli scudanti e agli intermediari che li assistono di sistemare queste operazioni fino al 31 dicembre del prossimo anno, a patto che l'aliquota che il governo chiede del 5% venga versata entro il 18 dicembre di quest'anno dagli intermediari. Mamma mia, non invidio per niente gli intermediari in questi giorni. Allora, sentiamo qualche domanda di qualche ascoltatore, poi magari andiamo anche al settore immobiliare, che è molto complesso oltre che molto affascinante. Stamattina uno dei nostri ospiti, l'avvocato Fabrizio Vedana, tra l'altro tocca questo aspetto su questo speciale sullo scudo fiscale in uscita con il Sole 24 Ore. Si parla anche delle case, delle proprietà immobiliari a Dubai, un altro bel tema in questo periodo, quindi ci interessa capire come possono scudare queste proprietà chi ce li ha, i contribuenti italiani che ce le hanno. Massimo da Verona, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Niente, semplicemente la mia domanda è questa. La mia ragazza ha lavorato per 7 anni negli Stati Uniti ed era iscritta all'Associazione Italiana per gli Italiani Residenti all'Estero, l'AIRE. Io so che per gli Stati Uniti ci sono degli accordi che evitano la doppia imposizione. Tuttora lei ha comunque un conto corrente con ancora parte di quello che ha guadagnato laggiù e anche una certa somma in titoli. Mm-hmm. Come si deve comportare? Per sistemare. Allora, è una situazione, come dire, paradossalmente banale. Basta andare da un intermediario, firmare la cosiddetta dichiarazione riservata e chiedere all'intermediario di occuparsi di tutto. Avvocato Vedana, comincio con lei, sì. Poi vado magari anche dal dottor Andrea Bolletta. La fortuna della signora è di poter scegliere tra la regolarizzazione e il rimpatrio. Allora, innanzitutto chiariamo, se è una persona residente fiscalmente in Italia, prima era AIRE, ora non lo è più, comunque ora ha gli obblighi fiscali in Italia, quindi a mio giudizio lo scudo lo deve fare. Per quanto riguarda le modalità con le quali farlo, ha di fronte diverse opzioni: o la regolarizzazione, perché gli Stati Uniti, come ha ricordato l'ascoltatore, in effetti hanno una convenzione contro lo scambio, contro le doppie imposizioni, quindi sono stati virtuosi, può lasciare i soldi dove sono senza riportarli in Italia. Mm-hmm. Dovrà ricordarsi ovviamente poi di fare i conti con, se necessario, la compilazione dell'RV, quindi della dichiarazione dei redditi. Il cliente, esattamente, famoso RV. Diversamente può anche scegliere di rimpatriare effettivamente questi denari, quindi spostarli presso una banca italiana in modo tale da poterli apprendere e poter disporre eventuali anche trasferimenti dei denari, prelevarli in contante, via dicendo, senza dover fare i conti con trasferimenti dall'estero sull'Italia. Per farlo, ancora una volta, dovrà presentarsi presso un intermediario, banca, fiduciaria, una SIM, ed individuare anche l'intermediario italiano presso il quale chiede e desidera che questi denari vengano materialmente poi ricevuti, come un bonifico che dalla banca americana arriverà sulla banca italiana. Sì, dottor Bolletta, visto che le alternative ci sono, lei quale seguirebbe, insomma, quale suggerirebbe a Massimo? Ma io tra queste seguirei sicuramente la strada del rimpatrio, quindi quella che dà la massima semplicità una volta completata, perché consente all'interessato che ha telefonato di non compilare più il quadro RW, quindi di essere esonerato da un adempimento che comunque è scocciante, sinceramente. In alternativa però bisogna anche pensare se l'interessato che ha telefonato aveva percepito tutte le somme che ha presso il conto corrente in America e presso il conto titoli in relazione a un rapporto di lavoro dipendente che avesse negli Stati Uniti, dove abbiamo detto che è stato residente per 7 anni. Sì. Perché in questa situazione potrebbe valutare anche un'alternativa diversa, che è quella del ravvedimento, cioè di andare a regolarizzare non con le modalità dello scudo, ma con le modalità, se vogliamo, ordinarie, che sono state poi chiarite con una circolare recentissima, la 48 del 17 novembre del 2009, che potrebbe portare in termini di sanzione un costo minore a quello dello scudo. Dello scudo, però ovviamente, esatto, però ovviamente senza tutti i vantaggi accessori dello scudo, in termini di copertura contro accertamenti, in termini di segretazione dei conti su cui affluiscono. Sì. Non credo che tra l'altro sia questa l'esigenza. Sì, sì, certo, non credo che questa sia l'esigenza dell'ascoltatore di fare tutte le operazioni, come dire, in una situazione di riservatezza, perché mi sembra anzi una situazione piuttosto trasparente, per cui sicuramente. Esatto, la raccomandazione è quella di considerare sia la possibilità di fare un rimpatrio nell'ambito dello scudo fiscale con il 5%, sia quello di fare un ravvedimento, quindi con un pagamento di sanzioni in modo spontaneo e in misura ridotta. Uh-huh. Andiamo da Giancarlo da Torino, perché qua vedo che come dire, gli investimenti in Spagna, nonostante il tracollo del mercato immobiliare degli ultimi anni, sono stati massicci. Adesso tutti con lo scudo fiscale si accorgono che devono regolarizzare queste abitazioni per le vacanze. Giancarlo, buongiorno, non volevo prenderla in giro naturalmente. No, certamente. In ogni caso, 4 anni fa ho acquistato questo appartamento Ibiza che si è rivalutato in maniera considerevole. Certo. Però arrivo alla domanda. Io ho pagato questo appartamento con un assegno circolare 4 anni fa dato a un italiano, per cui in atto è la stessa cifra corrisponde all'assegno circolare. Chiaramente della banca italiana. Per cui come devo comportarmi? Io non l'ho dichiarato nel mio 7,40, dunque devo devo scudarlo, non devo scudarlo, devo pagare. Sentiamo, sentiamo l'intermediario Giancarlo, la ringrazio. Allora, già, avvocato Vedana già ride, allora viene da lei anche, come dire, la cifra, visto che ha pagato con assegno circolare, precisa sulla quale fare il calcolo dell'imposta dell'aliquota del 5%, perché non è un caso di quelli complicati di cui stavamo parlando ad inizio trasmissione. Beh, evidente che in questo caso presumibilmente viene a cadere uno dei presupposti per poter accedere allo scudo, e quindi quello di aver violato una normativa sul monitoraggio fiscale. È uno. Però rimarrebbe l'intervenuta violazione dell'obbligo di indicare questo immobile nel quadro RV, cosa che avrebbe dovuto fare, quindi in questo caso credo che forse sia meglio sentire il professionista di fiducia, magari il dottor Bolletta ci può da questo punto di vista dire cosa suggerirebbe. Dottor Bolletta, ritorniamo da lei. Ma se l'immobile è stato locato sicuramente può accedere alla sanatoria, nel senso che sicuramente avrebbe comportato un obbligo di indicazione nell'RW. Se non fosse mai stato locato dalla data di acquisto ad oggi, occorrerebbe verificare la normativa spagnola, cioè andare a verificare se un immobile non locato, secondo la legge spagnola, produce un reddito da dichiarare in Spagna oppure no. Solo nel caso in cui lo produca potrebbe essere scudato l'immobile acquistato regolarmente con assegno circolare in Spagna e che non sia stato nel frattempo locato. La pratica di emersione di questo immobile potrebbe essere una regolarizzazione, per il fatto che la Spagna, comunque, come gli Stati Uniti del precedente ascoltatore, sono tra i paesi collaborativi, cioè quelli che consentono con l'amministrazione fiscale italiana uno scambio di informazioni in via amministrativa, il che vorrebbe dire completare la pratica di scudo con la produzione della dichiarazione riservata presso un intermediario finanziario entro il 15 dicembre del 2009, indicando come valore dell'attività il costo, così come risulta dall'atto di acquisto dello stesso, e fornendo all'intermediario la provvista per il versamento del 5%. No, tra l'altro stavo sentendo la considerazione sul paese collaborativo come la Spagna, anche la Francia, se non sbaglio lo è, perché ancora una volta in questa puntata, come nell'altra, si ripete il caso di chi ha acquistato casa in Spagna e in Francia. Ho capito, insomma, che negli ultimi anni molte delle nostre risorse, le mie no, sono finite appunto in questi paesi europei. La seconda casa, insomma, ha trovato come destinazione favorita fra i contribuenti italiani. Esatto. Infatti. Allora, siccome io tra qualche minuto devo salutare Lucilla Incorvati che deve lasciarci, però vorrei farle ricordare la storia di copertina di Plus 24 di settimana scorsa, che era dedicata a questo argomento, ma soprattutto era un monitoraggio molto attento su quanto stanno raccogliendo gli intermediari. Noi abbiamo stimato, anche sentendo sostanzialmente il 90% del mercato, al 15 dicembre circa 90 miliardi. Quello che appunto emergeva è che il mercato sarebbe proprio a una polarizzazione. Da una parte ci sono operazioni complesse con tagli molto grandi, quasi più grandi dei precedenti scudi, dall'altra parte abbiamo molti intermediari che ci segnalano invece scudi di taglio medio da 1 milione di euro, quindi tanti scudi, per cui veramente un mercato direi molto molto molto polarizzato. Dove stanno investendo queste persone che stanno rientrando con facilità, parte, diciamo, perché la poi parte, lo smontaggio delle operazioni più complesse. Abbiamo anche cosa. Fatto una verifica su dove andrà questa gran massa di denaro. Oltre a quello che aspetta Tremonti di denaro, tutto il resto la maggior rimane parte negli si ferma su prodotti di liquidità, siano conti di deposito che appunto o strumenti molto liquidabili, e anche perché molti sono concordi nel ritenere che questa liquidità vada a copertura delle imprese, quindi o a dare ossigeno diretto alle imprese o a in un qualche modo assicurarsi da parte delle banche appunto delle coperture di fidi e concessioni di credito, quindi direi strumenti molto liquidi. Lucilla, visto che ieri hai lavorato non so quante ore, 25 praticamente, ti lasciamo e arrivederci, ci sentiamo. A tutti, grazie e buona giornata. L'ultima parte di Salva Danaio, eccoci ritrovati con l'avvocato Fabrizio Vedana, responsabile dei servizi legali di Unione Fiduciaria, che è la fiduciaria delle banche popolari, e il dottor Andrea Bolletta dello studio russo De Rosa Bolletta e Associati, studio che tra l'altro insieme a Fabrizio Vedana firmano molti dei pezzi che questa mattina compaiono sullo speciale scudo fiscale del Sole 24 Ore. Stiamo ritornando a rispondere alle vostre domande su questa grande operazione, visto che il tempo stringe, anche se poi ieri sera abbiamo avuto modo con l'Agenzia delle Entrate di verificare che il tempo stringe e rende anche ulteriormente complicate le operazioni di regolarizzazione. Allora, per chi ancora ci sta pensando, non ha messo in moto nessun tipo di rapporto con nessun intermediario, quindi non ha ancora compilato nessuna dichiarazione riservata per regolarizzare o rimpatriare i propri capitali all'estero, sentiamo qualche altro caso dalla Spagna. Tra l'altro su quel caso spagnolo volevamo per un attimo tornarci. Andiamo in Francia con Giuseppe da Milano. Benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a lei. Vengo subito al quesito. Bravo. Dunque, che siamo stretti anche di tempi. Ok, allora, acquisto di un appartamento in Francia nel 1997 con un trasferimento della somma non regolare. Sì. Non è mai stata usata non è mai stata affittata ed è stata solo usata per vacanza. Ho avuto pareri discordanti in quanto 1997 mi dicono è fuori dagli anni accertabili, per cui io facendolo emergere nel quadro Revu 2010, perché questo è quello che voglio fare, alcuni mi dicono che devo comunque regolarizzare, altri essendo il trasferimento della somma fuori dagli anni accertabili e non essendo mai stata affittata, non avendo mai prodotto reddito, mi dicono che non serve fare la regolarizzazione, basta semplicemente farla emergere. Sentiamo cosa dicono i nostri esperti. Giuseppe, la ringrazio. Allora, il tema degli anni accertabili non ce lo siamo mai posto, avvocato Vedana Salvadanaio. Sì. Beh, è un tema direi importante di non trascurabile valutare, importanza. Quindi diciamo normalmente prendiamo come termine i 5 anni, quindi andiamo indietro di 5 anni e capiamo se non è un caso che lo scudo abbia previsto nel suo provvedimento ai fini del calcolo dell'imposta di tornare indietro di 5 anni, deve avere l'attività all'estero dal 31-12 entro 5 anni che vanno indietro, quindi dal 31-12-2008. Quindi in questo caso effettivamente la prima violazione, quella dell'esportazione di denaro, pare sanata, visto che parliamo del 97. In ordine alla mancata compilazione dell'RV, nel caso specifico, non essendo per legislazione fiscale francese l'immobile non locato ed utilizzato semplicemente ad uso vacanza da inserire, non è tassato in Francia, quindi non andava inserito alcun reddito nel quadro RV, effettivamente nessuna delle due violazioni, meglio la prima violazione è stata commessa ma non è più sostanzialmente accertabile, la seconda violazione in realtà non esiste, quindi in realtà effettivamente lo scudo, a mio giudizio, in questo caso non sa da fa. Ciò non toglie, evidente, che il cliente comunque dovrà ricordarsi dalla prossima dichiarazione dei redditi di metterlo, o meglio se riesce a farlo già col ravvedimento a partire dal prossimo anno, quindi è bene non dimenticarsi questo adempimento. Quindi l'unica strada perseguibile per l'ascoltatore è il ravvedimento. In realtà con ravvedimento in questo caso no, neppure il ravvedimento. Perché non può neanche pensare di, come dire, adesso senza voler dare addosso per forza l'ascoltatore, scamparla in questa maniera così banale. No, non lo deve fare lo scudo, ha commesso una violazione ma si è prescritta. La seconda violazione non era stata commessa. Quindi a mio giudizio in questo caso lo scudo non sa da fa. Va bene, speriamo di aver... Sento che parla ancora l'ascoltatore sotto, no, non era lui, era qualcun altro che vociferava. Dottor Bolletta, voleva fare qualche altra precisazione sul caso francese? Sì, direi che sicuramente la situazione dell'ascoltatore è quella di andare a indicare l'immobile nella prossima dichiarazione, quella che presenterà nel 2010 riferita al 2009. Perché? Perché c'è stata un'indicazione che l'amministrazione ha dato nella circolare 43 di quest'anno, per cui gli immobili come quello dell'ascoltatore, cioè detenuti in un paese come la Francia, che non siano mai stati locati, non erano da dichiararsi negli RW passati, infatti ha detto correttamente l'avvocato Vedana che non è stata commessa una violazione in questo senso dall'ascoltatore, ma dovranno esserli dalla prossima tornata dichiarativa, e quindi c'è un cambiamento che sarà l'occasione con la quale l'ascoltatore comincerà a indicare nell'RW l'immobile posseduto in Francia e proseguirà a farlo negli anni successivi senza sanzioni, senza pagamento e senza scudo fiscale. Allora, che poi sia giusto o no, questo è un altro discorso, però insomma col senno di poi si può dire di tutto. Volevo un attimo chiedere un pochino di pazienza a Maria Grazia, Tania e Davide, perché volevo chiedere all'avvocato Vedana, per chi ha una proprietà immobiliare a Dubai in queste ore, oltre a tutte le preoccupazioni legate a questo tipo di investimento che rischia il tracollo, che cosa deve fare per regolarizzare... come dire, rientro di questi capitali, perché leggo dal suo pezzo che c'è si chiama così, rimpatrio giuridico. Sì, esatto. Le sfortune non arrivano mai da sole, dicono. Sempre sul bagnato. Fondamentalmente Dubai deve fare i conti con questa crisi, speriamo solo temporanea. Chi ha l'immobile a Dubai, a differenza di chi ce l'ha in Francia e Spagna, come nel caso che mi hanno detto, non può optare per diverse strade, quindi non può semplicemente regolarizzarlo, quindi fotografarlo e metterselo facciano la dichiarazione dei redditi a partire dal prossimo anno, ma ha una sola strada, quella del cosiddetto rimpatrio giuridico. Rimpatrio fisico è da escludere perché gli immobili con le ruote li hanno inventati solo in America, ma a Dubai non mi risulta che ci siano le ruote. Quindi rimpatrio giuridico cosa significa? Sostanzialmente di dare un incarico ad uno soggetto intermediario italiano individuato dall'Agenzia delle Entrate nella società fiduciaria che assumerà un incarico ad amministrare questo immobile. Cosa significa amministrare un immobile ai fini dello scudo? Secondo l'Agenzia delle Entrate, ai sensi della circolare 49E del 23 novembre scorso, significa sostanzialmente fare da sostituto d'imposta, quindi fare quello che dovrebbe fare il contribuente in termini di applicazione delle imposte, quindi su quelle, sugli eventuali redditi maturati sugli immobili di Dubai, se sono stati affittati come abbastanza normale, perché l'investimento immobiliare a Dubai è stato fatto non solo e non tanto per uso personale, ma per affittarlo. Un investimento pure semplice, allora quei redditi andranno messi in dichiarazione dei redditi direttamente dal cliente o, come nel caso di specie, potrà essere la fiduciaria ad effettuare questa attività di sostituto d'imposta. Su questo attendiamo però dei chiarimenti da parte dell'agenzia, perché così come è stata scritta la circolare 49 lascia ancora dei dubbi. Attendiamo quindi un ulteriore chiarimento. Esatto, che arriveranno magari il 18 dicembre, no? Speriamo domani. No, vedo Maria Grazia e Tania, io non riesco a farla ad intervenire perché siamo ormai fuori tempo massimo, però ci chiedono chiarimenti su come comportarsi con la Svizzera. Avvocato Vedana, anche lei ha scritto tanto su questo. Rinvio ad un articolo che uscirà sul Sole 24 Ore lunedì prossimo, sarà un focus speciale sul tema Svizzera e toccherà anche i temi immobili. Questa mattina invece lo speciale in edicola oggi con il Sole 24 Ore tocca anche il tema di come devono comportarsi gli eredi di qualche capitale detenuto all'estero, ed è una situazione diversa a seconda che il defunto sia defunto quest'anno o negli anni precedenti. Altra situazione piuttosto complicata, in 30 secondi, avvocato Vedana, riusciamo 30 a chiarire. Secondi, circolare Agenzia delle Entrate 49E lo chiarisce: se gli eredi se la persona è morta nel 2008, la dichiarazione riservata va firmata dagli eredi, sono loro che diventano solidamente responsabili, c'è riservatezza. Nel secondo caso non c'è riservatezza, ma ovviamente lo scudo può essere fatto sempre a firma degli eredi. Ho la vaga sensazione che dovremmo correre dietro ancora a qualche altra precisazione dell'Agenzia delle Entrate prima che tutto il processo si completi. Io intanto ringrazio l'avvocato Fabrizio Vedana e il dottor Andrea Bolletta per essere stati con noi. Salvadanaio torna domani. Buona giornata a tutti.